sopravviti. Pioggia che sorprende con le mani in tasca. Sfilano dai cinema volti senza identità. Dunque sei rimasta qui, era prevedibile. I tuoi occhi parlano da soli, amore. È questa la tua verità, e me lo chiami esistere. Negali.